Mi è capitato di sentire dire un giorno da uno che commentava la parola di Dio che quando viene letta la parola di Dio noi siamo ascoltatori. Ma se riusciamo quella stessa parola che abbiamo sentito a ritrasmetterla come ritorno al Signore, quella è la più bella preghiera. Se io penso che siamo sempre alla ricerca di come pregare, vero? Perché nonostante tutto la preghiera occupa una grande parte della nostra vita, anche in coloro che ritengono di non pregare, credo che tantissimi pensieri, così anche vaganti, oppure alcune esclamazioni, oh Signore, o così altre, li abbiamo sempre o sulla bocca o nel cuore perché il nostro anelito a Dio è innato. Allora, oggi volevo riprendere il brano di Vangelo che ho appena proclamato a voi, Giovanni 15, 12, 17, e provare, dopo averlo ascoltato, a restituirlo a Dio come preghiera. Vediamo se mi riesce di farlo. Mentre mi preparavo la messa, l'ho fatto ed è stata da lì che mi è venuta l'idea di condividerlo con voi. Tu, Signore Gesù, dici a me, a noi, tuoi discepoli, caro Ambrogio, ti do il mio comandamento, che tu ami gli altri e vi amate tra di voi come io ho amato voi. E dico, Signore Gesù, io lo prendo volentieri questo tuo comandamento, ma io non sono capace. E allora il tuo amore stesso entri dentro di me con la forza dello Spirito Santo, perché il tuo amore è amore di Spirito Santo e mi renda capace di fare quello che tu mi comandi. Tu mi dici che nessuno ha un amore più grande di questo di dare la vita per i propri amici. Signore, ancora l'ascolto diventa preghiera e ti dico, aiutami a dare la vita per i miei amici, ma poi tu mi dici anche per i miei nemici. Quante volte io mi sento inadeguato e mi sento incapace, o magari dico alla gente, dobbiamo amare così perché l'ha fatto anche Gesù. E mi sento ripetere, ma io non sono Gesù. Quante volte io li ho guardati in faccia e gli ho detto, ah, mi accorgo bene che tu non sei Gesù, come non lo sono io. E allora dovremmo proprio pregare te, Gesù, per dire, dacci questo amore verso gli amici e verso i nemici. Tu dici, voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Certamente, Signore Gesù, io voglio fare ciò che tu mi comandi. Lo voglio. Dammi la forza dello Spirito Santo che vinca i miei difetti, che vinca le mie grettezze, le mie piccinerie. Quante volte mi trincero, Gesù, dietro le mie incapacità o dietro i difetti degli altri, ma tu mi hai detto che me lo comandi. Tu mi dici che non mi chiami più servo, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma mi chiami amici, ci chiami amici perché ci fai conoscere quello che il Padre ha nel cuore. Ti ringrazio, Gesù. Perché quelle volte in cui nella meditazione, nella preghiera, anche comunitaria, ma anche personale. Io sento che il tuo spirito mi svela il cuore di Dio, il pensiero di Dio, io mi innamoro. Io gusto questo pensiero, questi sentimenti. Poi ancora tu mi dici, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Signore, che bello questo. Quando mi è stato suggerito di fare l'esorcista e mi hanno detto vai, vai dal tal Monsignore e digli la tua disponibilità, io ho detto no, io non ci vado. Se è volontà di Dio sarò chiamato, e infatti sono stato chiamato. E quando ho manifestato questo al Monsignore, lui mi ha detto hai fatto bene, sei stato saggio. Non dobbiamo proporci noi per certi incarichi, perché poi se dovessimo trovare delle difficoltà, delle fatiche, dovremmo dire sei andato a cercarlo. Basta ubbidire. Che bello. Signore, mi basta ubbidire. Tu hai scelto me e mi hai costituito perché io possa andare e portare frutto e il mio frutto rimanga. Oh Signore, ti chiedo così anche di fronte a questi miei parrocchiani e di fronte a coloro che ascolteranno queste parole. Signore, aiutami a fare l'esorcista. Io non sono capace. Io non capisco, io non vedo. Io sono così stolto. Satana è così furbo. È così diabolicamente astuto. Fammi semplice figlio tuo, fammi discepolo di Maria, fammi alunno dello Spirito Santo, o Gesù. Sì, mi viene questa parola che voglio usare come invocazione. Fammi alunno dello Spirito Santo affinché possa capire, vedere, muovermi con i suoi 7 doni, possa portare frutto. E il frutto rimanga, perché, oh Gesù, tu vedi quanta gente mi mandi, quanta gente ha bisogno e quanto poco anche nel mondo e nella Chiesa c'è attenzione per questa schiera grandissima di persone tribolate dal maligno, tribolate non solo in maniera straordinaria, ce ne sono, ma non tantissimi, ma tutti noi siamo tribolati dai peccati, tribolati in maniera quotidiana, ordinaria. Ti ringraziamo, Signore Gesù, che tu ci parli e che tu ci richiami a restituirti come preghiera il tuo insegnamento.